Voci di piccola impresa, storie di eroi italiani, di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, storie di eroi italiani. Oggi si conclude la prima serie di questo programma dedicato alle realtà produttive piccole e medie, il 90% del tessuto industriale italiano che ogni giorno combattono eroicamente. E oggi concludiamo con due storie di qualità, una Made in Italy capace di fronteggiare la concorrenza e una Made in Europe che in Italia ha trovato un luogo di elezione. Si batte con piglio epico degli eroi romani per una produzione interamente italiana, l'Italico, e cioè l'imprenditore bolognese Carlo Chionna, che da giugno ha deciso di comparire su tutti i principali quotidiani nazionali armato di scudo e spada e vestire i panni del gladiatore Made in Italy. Chionna ha messo letteralmente la faccia per difendere l'artigianalità 100%, ma la battaglia è solo l'ultima provocazione di una storia di qualità italiana nell'abbigliamento. E il 1995, quando grazie a un'idea vincente del fratello Alessandro, Carlo Chionna comincia la sua avventura nel mondo della moda come imprenditore. Dalla nascita dei famosi pantaloni con la toppa firmati Jackerson allo stile nuovo che si chiama 9.2, creato nel 2003 con l'azienda Flyer, a cui si è poi aggiunta la società Futura. Ho iniziato il primo lavoro come commesso per 5 anni, poi ho fatto il rappresentante in una grande azienda, se si può dire il nome, era la Benetton. A 33 anni ho iniziato questo percorso aziendale, il primo marchio si chiamava Jackerson, inventato da mio fratello per 8 anni, poi dopo è partito il discorso di 9.2. Quando è nata l'impresa? L'impresa è nata nel 95 da un'idea di mio fratello che giocando a golf si asciugava sempre le mani nelle cosce e nei pantaloni, e quindi da quel punto lui ha pensato di applicare una toppa, un inserto sulla coscia per evitare di girarsi e deconcentrarsi prima di fare lo swing, e da lì è nata questa cosa. Dopodiché ha cominciato ad applicare vari materiali sul pantalone, facendo un inserto, curando bene il design, e da lì è partito tutto. Lei ha creduto subito nell'idea di suo fratello? No, la prima volta che me l'ha fatto vedere io gli ho risposto che non c'era bisogno di fare un pantalone che sembrasse un pantalone da cowboy. Però dopo 2 mesi e mezzo circa, lui mi ha chiesto di dare una mano dalla parte commerciale, magazzino, perché tutto è nato da una cantina, da una sua idea, da una cantina come magazzino, da una scrivania in casa che serviva per appoggiare i primi fogli, i primi ordini, da un computer comprato dal mio meccanico delle moto, classici computer con le scritte ancora verdi, senza neanche un programma dentro. Ho chiesto di fare un programma a un mio amico che si occupava, faceva il programmatore di computer, è semplice perché io con i computer non ci mastico se non per la musica o cose del genere, e me l'ha fatto e da lì è partito tutto. Quali sono state invece le cose che vi hanno ostacolato, che vi hanno scoraggiato, oppure all'inizio non eravate assolutamente spaventati da nulla? No, essendo 2 incoscienti, però riflessivi. In realtà poi dopo ci siamo scontrati con i commercianti che, appena visto questo pantalone, appunto anche loro, come è stata la mia risposta, non hanno creduto subito alla cosa. Tranne alcuni, e grazie a questi pochi che hanno creduto, perché ormai il commerciante è diventato un po' un porgitore, non è più un ricercatore come era un tempo, negli anni 70, 60, quando la moda aveva un senso. Fino agli anni 90 c'era ancora la volontà e la voglia di ricercare le cose. Si andava a Parigi, si andava a Londra, si andava a New York per scoprire i jeans particolari, le t-shirt particolari. Oggi invece viene tutto proposto perché c'è un indotto pubblicitario che permette a loro di stare seduti su una sedia, di aspettare il cliente, che poi siamo arrivati al dunque, perché poi il cliente non entra più. Perché quando il cervello diventa piatto e non è in movimento, purtroppo i negozi diventano altrettanto piatti. Si lamentano perché la gente non entra. Io credo che la gente vada stimolata. Poi ci sta anche il problema, il fatto dei prezzi, di queste esagerazioni, perché queste mega strutture, questi mega marchi, grandi brand che sono andati poi all'estero a produrre. E qui è il grande male, il grande danno che hanno creato all'Italia, perché avevamo delle maestranze, un know-how, una conoscenza di tutto quello che era, io definisco sempre da secoli, no? L'abbigliamento italiano, i sarti, i napoletani. Purtroppo è andato tutto perso perché hanno regalato agli altri, in Romania, in Cina, in Tunisia, adesso non voglio aversela con nessuno, però hanno regalato tutte queste nostre conoscenze a loro. Loro se ne sono appropriati e qui abbiamo perso praticamente tutto quello che avevamo acquisito da almeno 100 anni di moda. Ecco, questa sua vita imprenditoriale è anche spesa per difendere prima la mentalità del commerciante che ovviamente sposa un prodotto e lo porta avanti, e poi anche il Made in Italy. L'ultima mossa qual è? Beh, l'ultima mossa è stata quella del gladiatore che, preso quasi dalla disperazione, fra virgolette, perché ero stanco, mi ero un po' rotto di sbraitare a vanvera con i clienti, allora ho detto adesso vi faccio vedere come si fa a fare una bella campagna pubblicitaria in cassareccia, come diciamo noi a Bologna, no? Mi sono travestito da gladiatore, abbiamo fatto una foto, anche questa è stata fatta in casa, perché uno se la vede e dice, beh, chissà cosa hai speso, cosa hai fatto, abbiamo speso i minimi storici, semplicemente abbiamo affittato questo vestito da gladiatore al Cinecittà di Roma, dai costumi teatrali li abbiamo presi, adesso non lo so perché l'ha preso mio cugino è fotografo, lavora in azienda, mi ha fatto la foto, siamo andati in un posto che era un appartamentino che sto ristrutturando, abbiamo messo un fondale, abbiamo preso un po' di segatura, mi sono bagnati i capelli con dell'acqua, non ho adoperato gel, quindi proprio è stata una cosa semplice, quattro sfregi fatti con un pennarello e un po' di computer. Però tutto questo ha portato un risultato, direi, estremamente positivo perché se ne sono accorti in parecchi. Il risultato, oltre al fatto di aver creato questo grande clamore, rumore, qual è? Il risultato lo vedremo a breve perché se la gente si ricorderà che c'è qualcuno che ha ancora voglia di produrre in Italia e pensare alle produzioni, quindi tutto l'indotto, cioè voglio dire alle famiglie che ci lavorano dietro perché tutto questo nasce dalla volontà di mantenere quel poco che c'è rimasto, ecco che allora ci sarà un risultato positivo. Voi avete anche scelto un nome di un prodotto, Jackerson, che è anche straniero. Beh, questa è stata l'idea di mio fratello perché a lui piaceva foneticamente un nome americano, inglese. Siccome lui non sapeva come far uscire questo nome, se l'ha inventato andando a ricercare sull'elenco telefonico di Londra due nomi che foneticamente gli piacessero. E poi ha fatto questo assemblato Jack and Larson, che dovevano essere in origine questi due sarti, è una storia inventata, ovviamente questi due sarti inglesi che nel 1800 inventarono il primo pantalone da golf. Allora Jack and Larson è diventato Jackerson. Il 9.2 da dove arriva? 9.2 perché mio fratello dopo un anno e mezzo barra due ha deciso di lasciare appunto Jackerson perché era stanco, non gli piaceva inventare le cose ma portarle avanti non gli interessava più di tanto. Allora stava per cedere il marchio a un'altra azienda, al che io l'ho stoppato, gli ho chiesto se poteva lasciarlo a me. Ha detto volentierissimo, ci siamo organizzati, messi d'accordo per quello che poteva essere una cifra che oltretutto lui mi ha detto che non voleva niente, però ho detto no, dimmelo per favore, perché non vorrei sentirmi in debito, nonostante ci sia un bellissimo rapporto. E poi niente, ho fatto società con una persona che produceva, che dopo circa 6 anni e mezzo abbiamo cominciato le prime discussioni con questo signore e alla fine ci siamo ritrovati in tribunale. Il giudice ha ben deciso di fare un'asta fra me e lui e da lì è nato il nome perché questo signore era un ex socio, ha pagato la bellezza di 9 milioni e 200 mila euro a me per il 50% della società e lui ha guadagnato il marchio, ha vinto il marchio. Quindi gli ho rimesso i bastoni in mezzo alle ruote, sono ripartito, gli ho dedicato il marchio che è 9.2 in modo tale che lui tutte le mattine che si sveglia se lo ricorda. Questa cosa è piaciuta tantissimo alla gente perché è una storia vera, non è una cosa inventata. Queste strade che si sono prima unite, poi allargate, poi divise, poi rincrociate, suo fratello, altre persone, eccetera, e anche le difficoltà dell'inizio e poi le difficoltà anche dell'ultima crisi finanziaria che ha portato, diciamo, anche il settore a soffrire. Tutte queste, difficoltà le ha sofferte? Lei si sente un eroe ad averle attraversate? Sì, un eroe, però stiamo vivendo un momento talmente particolare che bisogna stare attentissimi. Io vorrei essere ancora più eroe, vorrei riuscire a vincere questa guerra perché dobbiamo stare veramente sul pezzo e soprattutto nella coscienza delle persone, aiutare i prodotti italiani, quindi comprare i prodotti italiani di qualsiasi genere. La seconda storia di oggi è europea, ma ha trovato in Italia terreno fertile. Ci racconta la storia di Aspria, Alessandra Scaglioni. Quella di oggi è una storia a due voci che racconta un progetto nato in Inghilterra e arrivato in Italia. Quello di Aspria, un marchio che raccoglie centri di sport e benessere e club che è fondato da due soci, Peter Beckwith e Brian Morris. Aspria was founded in the year 2000, 10 years ago, but really Aspria è stata fondata nel 2000, 10 anni fa, ma in realtà la sua origine risale al 1994-95, quando abbiamo fondato a Londra il club The Riverside. Quella è stata la vera nascita di Aspria, perché è allora che abbiamo cominciato a lavorare in questo settore. E quello che abbiamo fatto con Aspria negli ultimi 10 anni è stato portare la dimensione dell'Europa continentale nel business. Lasciamo il Regno Unito perché il mercato era impazzito, ma l'Europa per noi è un mercato importante, in particolare Belgio, Germania e Italia. E questa è la ragione per cui nel 2000 abbiamo fondato Aspria, per sfruttare un mercato che era, forse, ancora giovane, ma che secondo noi aveva un gran potenziale. Così abbiamo creato Aspria, cominciando dal Belgio, poi la Germania e ora l'Italia. E in Italia nel dicembre scorso entra a far parte di Aspria l'Arbor Club di Milano, nato nel 1993, e ce ne racconta la storia e lo sviluppo l'amministratore delegato Gianluca Bungaro. Sì, lo sviluppo di Arbor Club Milano, un po' come tutte le start-up, è stato delicato, è stato difficile. Nel nostro caso, considerato il formato inedito per quei tempi, il raggiungimento del punto di equilibrio finanziario ha richiesto un periodo di tempo un po' più lungo del solito, però una volta raggiunto siamo entrati in un regime di crescita costante che dura ancora oggi. E quali sono stati i momenti di maggiore difficoltà? La maggiore difficoltà è stata proprio la fase di startup. Per un formato particolare come quello dell'Arbor ci è voluto un po' più di tempo per posizionarlo su un mercato che non, quello milanese, che comunque non conosceva ancora questo tipo di business. Dopodiché non ci sono stati più particolari problemi. Una volta che siamo riusciti a posizionarlo, la crescita è sempre stata costante. Secondo voi quali sono i vostri punti di forza, quelli che vi hanno aiutato ad avere un buono sviluppo e che vi fanno andare avanti? Il punto è la combinazione di servizi unita alla professionalizzazione della gestione, unita a fattori quali anche la costanza, essendo un'azienda privata, chiaramente vi è anche costanza di investimento. Insomma, sono fattori che presi singolarmente potrebbero risultare anche attesi o banali, ma messi tutti assieme, applicati al nostro modello di business, lo differenziano. Nel periodo di crisi avete sentito le difficoltà del mercato, ne avete risentito oppure no? No, infatti noi siamo passati attraverso un paio di periodi di economia recessiva, questo è il peggiore evidentemente, ce n'è stato un altro, ricordo, intorno al 2001-2003, noi eravamo anche tra l'altro in fase di consolidamento in quel momento lì, da cui però siamo sempre usciti senza particolari contrazioni negative. La prima volta quasi mi sorpresi perché, insomma, il periodo delle Torri Gemelle, ci furono un paio d'anni di contrazione particolare. Ora non ne sono quasi più sorpreso perché, insomma, pensiamo che sia anche un po' frutto del nostro posizionamento commerciale. Il benessere comunque è un comparto in crescita, in controtendenza, e noi siamo ai vertici, almeno per quanto riguarda il posizionamento commerciale. Se lei dovesse dire di un progetto, di una prospettiva per il futuro alla quale tiene, tenete come gruppo particolarmente? Beh, intanto naturalmente siamo nella delicata fase dell'integrazione dell'azienda nel gruppo. Siamo a buon punto, ma insomma è comunque una fase delicata durante la quale non vi sono particolari cambiamenti. Naturalmente abbiamo dei progetti, perlomeno il gruppo ne ha, sull'Italia e ritengo che insomma la prospettiva di una possibile espansione del gruppo Aspria nelle maggiori località italiane sia assolutamente una prospettiva che tiene altissime le motivazioni, insomma, sia personali che della nostra azienda più in generale. Siamo già al lavoro su questo progetto. Ecco, su questo aggiungiamo un dato che ci arriva da Brian Morris e che parla di investimenti dai 100 ai 200 milioni di euro nei prossimi 3-5 anni per l'acquisizione di club come quello di Milano in altre città italiane, quelle che lei citava. I think nothing would give me greater pleasure than for Esprit to continue to expand in Italy. Penso che nulla possa farmi più piacere di un'ulteriore espansione di Esprit in Italia. È tutto per questa prima serie di Voci di piccola impresa, storie di eroi italiani. Tutte le puntate sono disponibili su internet www.radio24.it. Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima serie con nuove storie e nuovi eroi. Un saluto e un ringraziamento da Anna Marino.